America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Italy is one of the soundest Eurozone countries, except for one component, its debt. It has a heavy debt burden. Christine Lagarde, simbolo del Fondo Monetario Internazionale. Beh, il fondo ieri ha pubblicato i risultati della analisi in base all'articolo 4 delle condizioni paese dell'Italia e ha poi spiegato appunto in una lunga conference call con Kenneth Kang e Asim Hussein, il vice direttore del Dipartimento Europeo del Fondo Monetario, Kenneth Kang, il capo della missione articolo 4 del Fondo Monetario Internazionale in Italia, ecco, hanno un po' illustrato quali sono state le loro conclusioni. Questa missione articolo 4, lo ricordo ai nostri ascoltatori, è prevista dallo statuto del fondo, per cui parte una squadra di economisti, si reca nel paese membro e si svolge una lunga analisi dei dati macroeconomici, si collezionano informazioni, si conducono delle interviste e si traggono poi delle conclusioni a tutto campo. Appena qualche giorno fa abbiamo dato notizia della missione articolo 4 negli Stati Uniti d'America. Ecco, la missione naturalmente ci dà poi una fotografia di cui conosciamo molti contorni, per esempio sottolinea che il governo Monti ha potuto fare delle riforme significative, delle riforme importanti, però qualche messaggio c'è sempre, insomma il messaggio chiaro che abbiamo ricevuto dal fondo tra le mille parole è che l'incertezza politica potrebbe essere dannosa, come dire, lasciate lavorare Monti, lasciate lavorare il suo governo che si vada avanti nel mettere a punto nuove misure, altre misure che si completi questa missione. Voglio aggiungere, in America c'è molta preoccupazione per i profitti trimestrali, soprattutto nel comparto tecnologico. Il rallentamento dell'economia sta cominciando a farsi sentire, le cose in America non vanno così bene come sarebbero dovute andare e dunque insomma abbiamo un mix delicato. Io, al di là delle mille cifre che ci ha dato il Fondo Monetario, ve ne cito alcune, non so, nel 2012 il deficit italiano sarà al 2,6% del PIL, il debito al 125,8% del PIL, avremo una contrazione dell'1,9% della crescita, dunque saremo in piena recessione. Al di là dei numeri, i messaggi sono messaggi per riforme organiche, per un taglio della spesa pubblica, soprattutto un taglio della spesa del comparto amministrativo. Parole di apprezzamento, l'avanzo primario italiano è fra i più alti nei paesi dell'Eurozona. Ecco, come vedete, un'analisi, un rapporto a luci e ombre, ma vorrei sottolineare, e lo dico questo perché non l'ho sentito soltanto dagli esperti del Fondo Monetario Internazionale, ma perché insomma ci sono operatori di mercato che ragionano, lavorano, operano sulla base di quello che sta capitando oggi. La fotografia che ci dà il fondo è una fotografia non aggiornata all'ultima ora, è una fotografia di un periodo piuttosto lungo, con una prospettiva piuttosto lunga. Ecco, e beh, un po' dappertutto si teme che Monti non possa essere lasciato in pace a fare il suo lavoro, si chiede che questo succeda e che lui stesso e il suo governo diano dimostrazione di grinta e di poter davvero andare avanti fino in fondo in quelli che sono gli obiettivi indispensabili per poter rimettere il paese in moto. Ma la finanza oggi non si è fermata all'articolo 4 sull'Italia. La finanza ha dominato con un paio di altre notizie importanti. LIBOR doesn't just apply to the rate that banks lend money to each other, it also applies to the rate that we consumers pay on several different types of loans. Lo scandalo LIBOR inglese è arrivato fino agli Stati Uniti. Il Senato USA ha deciso di sentire Ben Bernanke, governatore della Federal Reserve, e il segretario al Tesoro Geithner. Il presidente della Commissione Finanze Democratico Tim Johnson ha detto che insomma le ramificazioni sugli Stati Uniti di questo scandalo LIBOR in Inghilterra possono esserci, forse ci sono state, ci sono stati dei contraccolpi magari sul prezzo dei stessi buoni del tesoro. Insomma, si vuole capire fino in fondo che cosa è successo, ma dal punto di vista finanziario è successo qualche cosa ieri di ancora più grave. Una giornata movimentata perché la polizia a Cedar Falls in Iowa è accorsa quando si è saputo che Russell Wansendorf, il fondatore della Peregrine Financial Group aveva tentato di suicidarsi, si era sistemato nella sua Chevrolet Cavalier argentata e si era messo davanti ai quartieri generali della sua compagnia con un tubo chiuso dentro il finestrino collegato allo scappamento della macchina. Perché? Beh, perché è successo che questa Peregrine Financial ha fatto sparire, sembra, 400 milioni di dollari. Non solo questo signor Wasendorf ha mentito alle autorità, diceva che aveva circa 200 milioni di dollari ancora in cassa e quindi non aveva nessun problema di liquidità fino all'altro giorno. In realtà si è poi scoperto che in cassa c'erano soltanto 5 milioni di dollari. Nel frattempo erano state fatte delle operazioni al margine, delle operazioni speculative, perché la Peregrine si occupa di compravendita sui future. Dunque un secondo scandalo, un'altra finanziaria che crolla in America per operazioni spericolate. Tra l'altro, scusate, apro una parentesi, perché l'inchiesta è stata condotta dalla Commodity Future Trading Commission, poi è intervenuto anche l'FBI, ma la combinazione ha voluto che, se lunedì c'è stato questo tentato suicidio e ieri si è capito che c'è un buco praticamente incolmabile con i clienti che avevano dato i loro fondi che non possono più rientrare in possesso dei soldi, col 200 impiegati che chiaramente si trovano per strada perché non ci sono più gli stipendi, ecco, e ieri la Commodity Future Trading Commission ha anche emanato nuove regole, nuove definizioni sugli swap. Gli swap sono degli scambi finanziari che consentono in teoria di proteggersi, per esempio su un rischio cambio, su un rischio fluttuazione, e sono delle operazioni però di swap che poi tendono ad avere degli sviluppi speculativi, vengono fatte al margine, il margine spesso è altissimo, si è creato un volume ormai superiore, pensate, ai 650 mila miliardi di dollari a livello globale. Il mercato degli swap vale questo ammontare. Ecco, la Commodity Future Trading Commission ha emesso una serie di definizioni di regole e un primo passo per imbrigliare, per rendere più trasparente questo mercato, per costringere le istituzioni finanziarie a fare finalmente delle dichiarazioni che ci facciano capire che cosa sta succedendo in questo mercato. Vi dicevo, è un primo passo, ma all'interno della commissione, formata da 5 membri, il voto è stato schiacciante, 4-1. Dunque si procede in materia di riforma. Una giornata intensa, la finanza domina. Domina in Europa, domina il Fondo Monetario Internazionale, domina nel mercato degli swap, domina nel momento in cui l'ennesima istituzione finanziaria americana fallisce, e c'è da chiedersi, ma si vedrà mai la luce fuori dal tunnel? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Dopo 10 anni dal suo disco di esordio, Cody Chestnut torna con un nuovo album, in modo molto originale. Ha chiesto aiuto ai suoi fan attraverso un sito di raccolta fondi, Kickstarter, per aiutarli alla produzione. Con un po' di fortuna, il disco, titolo Landing on 100, potrebbe uscire già in ottobre. E dunque diamoli fiducia e speranza a Cody Chestnut, Under the Spell of the Handout. Walking on a path of perdition, I see the smokestacks in my periphery. I've been all the time spewing the residue of the working class's faith in democracy. Church house, tilting on that bank, no whoa. Attracting folk with give me some money, Lord, yeah. Three-piece snack is riding on a 3-minute song with that horse hair. Selling out for the subwoofers, but bumping, hollering, but I'm hungry for freedom, but I don't know how to eat that day because I'm cash, yeah. I go for treason if that will increase my pay because I'm under the spell of the handout. Under the spell of the handout. Give me my share, please. Yeah. 25 years to life, the new degree, new occupation. Senses can't quantify the desperation nailing the hungry and the beaten all across the dreamy USA, the ball is under the spell. And now, give me my share. I heard the pleasing cries, give me a voice, give me my mind back, give me the floor, give me some room, no, gotta take it. I heard the pleasing cries, make me the choice, let me in the cast, give my poor son and daughter a pass. You gotta take it, gotta take it. Sometimes you gotta ask yourself, what am I feeding on? What am I stepping in? What am I giving up? Giving up now? What am I depending on? What do I represent here? What am I? Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta, vi dà appuntamento a domani, goodbye and get going!